Passano gli anni, passano, crescono i bimbi, crescono, ritorni come un brivido su questo palcoscenico, però ti sento timida, timida. Crescono.